sì, mi scherzisti, il promesso tesoro di scettri di colore a me rapisti. Ma, Giustin, con chi parli e chi rampagni, fuori le speranze tue sono ombre e sogni. Il cor languente, amore, tu almen da pace all'agitato cuore. Prima che il nuovo sole splenda nell'Oriente, io miei figli di nuovo a cingere le nemiche mura. Ma che scorgo, o minuti, non è questi colui che là nel campo di catene di cinze, il cielo irato lo offre in vittima forse al mio furore? Sì, sì, vuo che dal sogno passi tosto alla morte. Ascolto, mio Germano è costui, forse fia quelli che sul veloce oclade l'involasse una tigre dentro la culla. Ma selli di mia stirpe lo scoprirò alla stella che testimon dei vitaliani illustri nel braccio manco esser dovrà scolpita. Non più si tema, ed esco, sorgi, non più dormir, già che nel cielo per te vegliano i fati. Quel portenti divino i non raccolti. E chi sei tu che nel mio mal pietoso dal sonno mi risvegli? Vitaliano son io, tuo nemico signor, ma tuo Germano! Che ascolto, o dei, di così nobile pianta, io son germe sublime. Comportendo improvviso i tuoi natali, or palesommi il fato. E le senture mie son fortunato. Lascia che il senti stringa, cari amplessi, o mio Germano amato. Cessi la gioia, e voi, Germani, i miei sensi ascoltate. Se il paterno sangue che nel seno vi scorre gli alti impulsi d'amor non stegnerete, né cuniti verrete al tradito Anastasio. Adito culto manoto a me ci interrorerà sicuri, si non di oggi Bisanzio e il tradito Ramancio in vil catena del temerario ardir paghi la pena. Narri, signor, ben degna l'opra, su, pronchiere dell'allempio tiranno, si radoni le schiene. Già mi sembra che al sol cada il ribelle. Di vostre glorie a parte, anch'io compari ardir voglio trovarmi. Alle mie feste, alle vittorie, all'ardir.